apro un libro che mi è appena arrivato per recensione, è il giallo piuttosto massiccio di una scrittrice spagnola che non conosco, e trovo in apertura i ringraziamenti dell'autrice. Succede. Se una volta questo tipo di paratesto era praticamente esclusivo dei saggi accademici, e si capisce perché era il modo più spiccio con cui i cattedratici che firmavano quelle opere senza averle scritte potevano dar conto del lavoro dei vari assistenti che avevano provveduto materialmente alla bisogna, oggi lo si trova sempre più spesso nei volumi di narrativa. Niente di male in fondo. Ci sono tanti modi per aiutare un romanziere, oltre a quello di suggerirgli la trama, che difficilmente verrà riconosciuto per iscritto, e renderne pubblicamente grazie è cosa buona e corretta. È giusto che chi ha ambientato un romanzo in tribunale ringrazi l'amico avvocato che gli ha spiegato i misteri della procedura, e che chi si è fatto servire a puntino per tutti i mesi che gli sono serviti si dichiari grato a chi gli preparava i pasti, gli spazzolava i vestiti e gli spolverava il computer. La nostra scrittrice sembra attenersi a questa lodevole tradizione. Ringrazio il tale che gli ha dato una mano nelle traduzioni dal greco e dal latino, che fa temere che si tratti di un giallo colto, e il tal'altro che ha verificato i dati storici. Ma si capisce che non sono queste le cose che lo interessano veramente. A un certo punto lo stile si impenna. E per ultima, senza che questa posizione in classifica supponga una minore importanza, voglio ringraziare la mia agente, Antonia Cappa, una persona in cui confido ciecamente. E poi non potrei arrivare al termine di questa pagina senza menzionare la mia editor preferita, Carmen F. Dicono che le relazioni più personali di uno scrittore sono quelle con il suo agente e il suo editor. Ebbene, sì, è proprio così. E così via di questo passo per una decina abbondante di righe. Ci risiamo. Quella dei ringraziamenti all'editor e alla gente è una moda che, in un certo tipo di narrativa, infuria da un po'. Prima si ringrazia l'editor e subito dopo la gente, in termini che lo stesso Oreste si sarebbe vergognato di usare per Pilade e Damone avrebbe considerato eccessivi per Pizia. E ogni volta che mi imbatto in quelle espressioni mielose, che volete che vi dica, su di me cala una cappa di nero sconforto. Vedete? L'editor, per chi non lo sapesse, è il funzionario o dirigente della casa editrice che ha l'incarico di rivedere le bucce al manoscritto. Perché un autore dovrebbe dichiararsi grato a una figura del genere è cosa che francamente non supera le mie facoltà di comprensione. Un buon collaboratore certo fa comodo a tutti, oltre a mettere a posto gli apostrofi e le virgolette, che sono cose a cui gli scrittori, anche bravi, in genere badano poco. Può individuare in anticipo inesattezze e punti deboli, può suggerire dei miglioramenti, può impedirti di far scivolare nella tua prosa, come capita a tutti una volta o l'altra, qualche immane cazzata. Ma è fin troppo ovvio che nessuno di questi concetti, inesattezze, dico, punti deboli, miglioramenti, cazzate, ha un valore assoluto. Dipende tutto dai criteri, dai punti di vista da cui si parte. E quello che per uno è uno scempio, per un altro può essere una trovata sublime. Un editor strenuamente convinto delle necessità del lieto fine, ce ne sono, non avrebbe mai fatto passare a Sofocle di Porè. E un assertore a ogni costo della plausibilità della trama avrebbe esitato a concedere il visto si stampi all'Orlando Furioso. E se questi esempi vi sembrano eccessivi, ci sono sempre quelli storicamente accreditati di Vittorini che rifiutò il Gattopardo per la Mondadori perché non era conforme al modello di romanzo in cui credeva lui, o di Calvino che per puntigli di ordine ideologico sbarrò le porte dell'Einaudi e la Vita Agra di Luciano Bianciardi. E anche se mi ricordo bene al sequestro è un uomo di Primo Levi. E vabbè, quelli erano importanti scrittori in proprio che combattevano in un certo senso per le proprie idee. Ma oggi gli scrittori non fanno gli editor. Quando quel delicato incarico è affidato a un onesto professionista dell'editoria, è difficile che i suoi obiettivi siano molto diversi da quelli di assicurare la vendibilità del prodotto. Che non è cosa da poco, perché un libro invendibile serve a poco. ma non è precisamente esaltante dal punto di vista della libertà creativa. Vendibilità significa spesso adeguamento alle mode, rinuncia alla propria originalità, sottomissione agli idoli della tribù del mercato. L'editore, in buona sostanza, è colui che nel processo della scrittura si sforza di renderti quanto più possibile diverso da te, che ti impone delle ragioni che, a prescindere dal loro fondamento, sono comunque diverse dalle tue. E la gente, il professionista che per conto degli scrittori si occupa degli aspetti commerciali del loro lavoro, non avrà una funzione molto diversa. Lui dagli editori non dipende, ma tratta con loro. È pagato percentuale sui libri venduti e l'idea di un'opera dal sommo valore stilistico-ideologico e dallo scarso smercio in libreria non deve allettarlo particolarmente. Insomma, nel migliore dei casi la necessità di trattare con figure professionali del genere dovrebbe essere considerata dagli autori un male necessario, se va proprio bene. Nel peggiore è una insopportabile imposizione. Personalmente ho sempre ammirato tra gli scrittori che conosco quei pochi che, a costo di restare inediti per anni, non hanno mai permesso a nessuno di mettere a mano le loro cose. Uno, potrà sembrarvi strano se lo conoscete solo superficialmente, è il buon Andrea Pinkez. Ma gli altri, con maggiore o minore entusiasmo, si adeguano. Nella società del mercato globale fanno la loro scelta e avranno naturalmente i loro motivi. Però non è obbligatorio mostrarsi entusiasti. A me quei ringraziamenti danno l'impressione di una forma di piaggeria particolarmente sgradevole, come quella di chi tra libertà e profitto ha scelto decisamente il profitto e sa che a chi può decidere in merito è bene lisciare un po' il pelo, fatti suoi naturalmente. E poi la presenza di quei testi, di quei paratesti, può avere anche i suoi lati buoni. Io, per esempio, che in certi periodi ricevo più libri di quanti riesca materialmente a leggere e devo per forza fare una selezione, quando trovo questi ringraziamenti in apertura o chiusura, chiudo il volume e non ci penso più. Rischio di perdermi chissà quali capolavori, certo, ma un criterio bisogna bene adottarlo, e quello non mi sembra peggiore di tanti altri. Chi deve acquistare il volume in libreria, si ammetto, può avere qualche problema in più. Ma provate anche voi, quando il libro non è cellofanato e i commessi non sono troppo fiscali, a dare un'occhiatina preliminare, vi risparmierete parecchi bidoni.